Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata e siamo nel 2010, cari gastronauti. Ebbene, tutto cambierà, chissà, o tutto rimarrà come prima. Bene, oggi andremo ad esplorare appunto cosa succederà in gastronomia, cosa succederà nelle cucine, cosa succederà nel mondo del vino. Succederanno delle rivoluzioni, tornerà la tradizione? Ebbene, questi sono sempre gli interrogativi che ci poniamo all'inizio di ogni anno. Che fine farà la cucina molecolare dopo gli sconquassi dell'anno passato? Sarà ancora di gran moda oppure sarà ridimensionata? Oppure non è mai esistita forse? Ecco, andremo a scoprire un po' tutto questo. E allora cominciamo questo nostro viaggio da uno chef di Sinigaglia, molto importante, che così in questi ultimi anni veramente è cresciuto tantissimo e ora ha le vette della Hit Parade. Buongiorno a Mauro Iuliassi. Buongiorno Mauro. Ciao Davide, come stai? Bene. Senti Mauro, ma tu cosa pensi che possa succedere nel 2010 nelle cucine? Ci sarà la rivoluzione o tutto rimarrà come prima? Ma io credo che le nuove tendenze in generale si dirigeranno verso la semplicità. Cioè una semplicità intesa come un atteggiamento mentale innovativo e altamente creativo, come potremmo dire, come una difficile via da percorrere per capire di cosa si ha realmente bisogno, o meglio di cosa realmente si desidera. E questo comunque accade in ogni epoca, no? In cui si passa da momenti di ricchezza e quindi di spreco, una società tanto più ricca, tanto più spreca, e a quando poi si passa da situazioni di crisi per cui per andare avanti occorre ripensarsi. Quindi, per esempio, in cucina, se nel periodo diciamo di grande espansione e di ricchezza diffusa, facile da raggiungere, la creatività del cuoco si è in un modo o nell'altro indirizzata verso l'effimero e un po' l'inconsistente, alla ricerca di un sapore sempre meno legato alla sostanza e alla materia prima tradizionalmente intesa, ora senza rinnegare nulla al passato, perché comunque è funzionale al presente, è già in atto una nuova fase che secondo me ha il suo fulcro nei cambiamenti delle scelte di consumo, cambiamenti verso una maggiore sobrietà, una maggiore concretezza. Ecco, tu mi hai proprio rubato questa parola, lo stavo per dire io, sobrietà. Quindi più concretezza. Mauro, pensi che questa crisi economica, diciamo molto forte in tutto il mondo, abbia influito o influisca un po' sul corso della cucina? Influisce perché ci sono in atto dei cambiamenti. I cambiamenti, come diciamo prima, sono verso una maggiore sobrietà, cioè una maggiore concretezza e una maggiore sensibilità anche all'ambiente e un ripensamento ai propri gusti legati anche alla compatibilità economica. E come diciamo prima, soltanto chi sarà animato da conoscenza e da forti tradizioni avrà la possibilità di andare oltre e continuare a innovare e a crescere. Sicuramente non c'è più spazio alla improvvisazione, però io dico che non deve essere frainteso come un messaggio conservativo in antitesi con l'innovazione, in quanto poi sembra facile, no? Il parallelo della cucina semplice, innovativa, della cucina innovativa uguale alla cucina complicata, inconsistente, come tu dicevi prima, con l'abuso del termine di cucina molecolare, e la contrapposizione alla cucina della nonna, quindi una cucina tradizionale come una cucina, ecco, semplice e di sostanza. Rimani con noi, continueremo. Ora sentiamo anche, abbiamo con noi Roberto Anselmi, un noto produttore di vino, è un po' giramondo, e appunto da lui voglio chiedere se, Roberto, anche tu pensi, come ci stava dicendo l'amico Iuliassi, che la parola sobrietà e moderazione sta arrivando anche nel mondo del vino. Buongiorno a tutti. Sicuramente anche il vino è toccato da questa, più che da questa crisi economica, da un ripensamento sui modelli, sulla qualità, soprattutto su come il vino si pone al consumatore. Il consumatore comincia a fare delle scelte un po' più intelligenti del passato, io credo, dove si compravano bottiglie perché, solamente perché costose. Oggi si comprano le bottiglie costose perché valgono, e si ripensa anche a vini che hanno un loro valore intrinseco, una qualità reale, anche a un prezzo molto equilibrato. Quindi si sta un po' modificando il sistema distributivo e di consenso del consumatore. Ecco, diciamo che in questi ultimi anni si sono susseguiti vari modelli, il modello californiano, il modello australiano. Ecco, all'orizzonte c'è qualcosa di nuovo oppure diciamo c'è una maggior coscienza di, in Italia di fare un vino italiano senza copiare altre tipologie di modello? Allora, secondo me, ripeto, è una mia personale opinione, il futuro sarà per l'eleganza. E in questa parola si esprime il punto d'arrivo di quello che è stato la California, l'Australia, i vini strutturati in maniera, vorrei dire, senza critiche, un po' esagerata. I vini dei falegnami, insomma, quelli che sapevano di legno. I falegnami poi sono morti. Tu sei stato un chiaro veggente molti anni fa quando ne avevi dichiarato la loro breve vita e così è successo. Ma direi che più che un modello internazionale, quindi un riferimento alla California o all'Australia, secondo me si ritorna a quei modelli aromatici molto fini, molto eleganti e di lunga vita, che possono essere conservati nelle cantine dei ristoranti o delle famiglie. Però si va verso l'eleganza e in questo credo che l'Italia abbia una possibilità enorme proprio per il grande numero di vitigni che noi abbiamo, grandi differenze di terreni, potremmo esprimerci molto molto bene nella linea, ripeto, eleganza. Mauro Uliassi, negli ultimi anni il modello, chiamiamolo così, spagnolo, che così ha trascinato quel grande personaggio che è Ferran Adrià, ha un po' dominato la scena, contaminato moltissime cucine. Tu pensi che così, come ho detto ad Anselmi, all'orizzonte ci sia qualcosa di nuovo oppure c'è una maggior coscienza delle proprie possibilità anche in Italia di una vera e propria cucina italiana? Ma guarda, la cucina italiana in questo momento si sta esprimendo, sono anni che la cucina italiana si sta esprimendo secondo modelli assolutamente italiani. Il successo di Ferran Adrià è legato a un successo di pensiero, cioè lui ha cambiato il modo di pensare alla cucina, ha messo in tutti quanti il desiderio di fare con entusiasmo le cose e questo come poi in tutte quante le situazioni, poi è prodotto dei mostri e invece prodotto anche delle situazioni che hanno dato un grande poi apporto alla... Bene, caduta la nostra linea di Uliassi, sarà difficile riprendere, allora io magari continuo con Roberto Anselmi e volevo chiedere appunto questo, che nel 2010, quindi dal 2010 in poi, quanto diciamo influiranno nelle scelte del consumatore le guide dei vini, Roberto? Beh, senza voler essere pessimista, però io credo che una guida, qualsiasi guida, abbia comunque un percorso, un punto di riferimento, una curiosità, una conoscenza di un nome di un vino che non si ricorda, di una zona di cui non si ricorda un produttore. Però che questo influisca i consumi, io credo che in un futuro, nel 2010, 11 o 12, l'importanza, l'incidenza di un premio, di una guida a un vino possa modificare di pochissimi punti percentuali le vendite di quel vino, perché il consumatore ormai ha una propria coscienza, ha un proprio modello da seguire e chiaramente la curiosità porta anche a fare l'assaggio di un vino premiato, di un vino, ma la guida inciderà sempre un pochino meno, fino a trovare poi un suo punto di equilibrio in cui troverà veramente un uso corretto, un po' come quando si prende una carta geografica, no? E si ha bisogno di conoscere, si ha bisogno dello specifico, la guida serve a questo. Ma diciamo insomma che troverà un punto di equilibrio tra la conoscenza sempre più approfondita del consumatore e l'esigenza di documentarsi a livello generale, forse sarà questo il punto di equilibrio. Sicuro, anche perché dovrà, io credo, essere sensibilità del critico comprendere e conseguentemente premiare i vini che possono anche essere in linea con il momento, col desiderio del consumatore. A volte questo non è stato fatto e forse questo crea qualche piccola diffidenza. Bene, grazie. Grazie a Roberto Anselmi. Roberto Anselmi, produttore di un grande Recioto, e quindi lo saluto e lo ringrazio. A presto, Roberto. Grande saluto a tutti gli ascoltatori. Il gastronauta. Buongiorno, buongiorno cari gastronauti. Ebbene, come avete sentito, siamo proiettati nel 2010 e andremo, o cerchiamo almeno di scoprire quali saranno le tendenze del mondo della gastronomia, le tendenze nel mondo della ristorazione, le tendenze nel mondo del vino. E per questo ne parliamo con Alessia Antinori. Buongiorno Alessia. Buongiorno Davide. Alessia, cosa sta succedendo nel mondo del vino? La crisi economica e l'etilometro stanno portando dei grandi cambiamenti verso il consumo, oppure sarà solo un momento questo? Nel 2010 tutto tornerà come prima? Beh, sicuramente è stato un anno non facile, anche se pensiamo che aziende come la nostra, come Antinori e come varie altre solide e sicuramente consistenti nella qualità, in questo momento sia sicuramente più facile che per noi che per altre aziende che magari sono più nuove. Noi abbiamo una storia, abbiamo una tradizione e sicuramente, come ho detto, anche questa consistenza di qualità che quindi fanno sì che il consumatore voglia comunque tornare e continuare a comprare un vino di un'azienda nota e solida. Quindi per noi sicuramente è stato un anno di molto stimolante, però diciamo che specialmente in Italia è andata abbastanza bene, all'estero sicuramente ci sono stati paesi dove ci sono state delle difficoltà, però altri paesi invece che sono andati abbastanza bene. Quindi mi sembra di capire che il marchio, che oggi sicuramente conta molto sul mercato, ma volevo anche chiederti, c'è così delineato un identikit di un vino che sarà sempre più richiesto? Cioè sarà un vino barricato, sarà un vino profumato, sarà un vino che avrà delle caratteristiche organolettiche particolari, oppure anche qui il consumatore, cioè, non cambia, non è cambiato? Io penso che ci sia un'evoluzione nel consumatore, nella scelta dei vini, assolutamente ci sia molta più richiesta di vini particolari, di vini prodotti da uve diverse. Quindi l'Italia può sicuramente offrire delle varietà autoctone che fanno sì che comunque i vini siano diversi e molto unici. Noi siamo degli amanti di Sangiovese chiaramente, però negli ultimi anni siamo focalizzati anche su altre varietà come il Vermentino, il Negramaro, il Primitivo, l'Aglianico, e questo penso che sia molto importante perché c'è stata una grande evoluzione del palato del consumatore, quindi una richiesta di vini diversi, sicuramente molto strutturati, e sicuramente il rapporto qualità-prezzo negli ultimi due anni è un fattore molto importante. Quindi mi sembra di capire nuovi vitigni, cioè quelli magari che sono molto più sconosciuti al consumatore, cioè non tanto quelli tradizionali, diciamo, che sono i nostri, da cui appunto Sangiovese o d'altro. Mi sembra di capire, quindi c'è la ricerca del nuovo, del diverso. C'è la ricerca del diverso perché c'è stata un'evoluzione del palato del consumatore, direi non solo in Italia ma in vari paesi europei e anche negli Stati Uniti. Io mi occupo degli Stati Uniti ora nell'ultimo anno del mercato statunitense, e c'è la ricerca di qualcosa di diverso che non sia solamente varietà bordolesi o comunque Cabernet, Merlot, Chardonnay, ma varietà diverse che possono far sì che ci sia una diversità anche nella scelta e nel palato del consumatore. Ecco, volevo chiederti, visto che tu ti occupi del mercato americano, quanto influisce il giudizio e i voti, quanto influiscono i voti di Parker sulle scelte del consumatore americano? Sia Parker che il Wine Spectator sono due riviste molto importanti e direi che influiscono abbastanza, specialmente i punteggi, forse direi di tutte e due, ma sulla fascia media del consumatore. Sul collezionista esperto sicuramente questa ha meno influenza, perché comunque ha già i suoi valori e le sue idee. Però sicuramente sulla fascia media del consumatore, che è una fascia molto importante per noi, ha un valore molto importante. Noi non basiamo chiaramente tutti i nostri vini sui ratings, quindi su quello che ci danno i wine Peter e Parker, però sicuramente abbiamo per fortuna degli ottimi punteggi. Ecco, se tu facessi un parallelo sull'influenza di Parker e Wine Spectator e rispetto alle guide italiane, c'è la stessa influenza oppure c'è minore influenza o Parker c'è più influenza? Parker e Wine Spectator sono più valutate fuori dall'Europa. In Asia, io quando mi occupavo dell'Asia, Wine Spectator era estremamente importante perché le riviste sono più conosciute, si vedono e sono vendute anche da quell'altra parte del mondo. In America sicuramente Wine Spectator e Parker sono estremamente importanti, più delle riviste italiane. In Europa le riviste italiane hanno chiaramente un valore diverso da quelle americane e sicuramente hanno un valore più importante. Bene, grazie ad Alessia Antinori che ci ha dato così uno sguardo internazionale. Grazie e buon 2010 e a presto. Grazie. A presto, e ora andiamo a verificare cosa succede nei bar, perché anche i bar hanno una grande importanza sul consumo e ci sono grandissimi cambiamenti sulle tendenze negli ultimi anni, anzi sono stati molto ma molto importanti. E allora chiediamo a Stefano Ninčević di Bar Giornale appunto di dirci cosa sta cambiando nel bar italiano. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente tante cose sono cambiate. Innanzitutto è finito il tempo cosiddetto dei cocktail robusti, dei cocktail che andavano di moda qualche anno fa, una decina d'anni fa. Ora si torna a dei drink più leggeri, a cocktail fruttati, drink speziati, cioè si cerca di dare un'impronta nuova ai nuovi drink, soprattutto dandogli quel tocco di colore, quel tocco di aroma in più rispetto a un tempo. Sì, è anche il tempo, come dire, del ritorno dei classici, e anche dei classici cocktail in versione rivisitata. Infatti si parla non a caso di neoclassici. Tanto per essere più chiari, ci sono dei cocktail che erano finiti un po' nel dimenticatoio qualche anno fa, come non so, l'americano, piuttosto che il Negroni, piuttosto che il White Lady, che tornano prepotentemente sia nella ricetta originale sia ricombinati in altre ricette più innovative, in altre anche forme più innovative. La cosa più interessante degli ultimi anni è proprio il fatto che il cocktail non è più semplicemente liquido, ma può essere proposto in gelatina, in spuma e tutta un'altra serie di... Stefano, e lo spritz continuerà in un successo così sempre crescente come sta capitando in questi ultimi anni? Sicuramente sì. Tra l'altro è partito alla carica dal Veneto per poi conquistare piano piano tutto il resto tutto il resto d'Italia, perché comunque è quello che si definisce un cocktail facile da bere oppure beverino, perché è un drink che si prepara essenzialmente con i due ingredienti, è leggero, è il tipico classico caso di cocktail sia leggero sia classico, per cui è un classico della tradizione veneta ma anche in qualche modo della tradizione lombarda, il cosiddetto spruzza, come si chiama. Beh, ormai mi sembra che stia prendendo un po' in tutta Italia, perché quest'estate imperversava in Sardegna, poi è stato aperto un bar a Barcellona, uno a Bruxelles, tutti basati sullo spritz, e quindi credo che ormai stia diventando un globetrotter lo spritz, diciamo un aperitivo apolide. Ma volevo chiederti un'altra cosa importante sull'happy hour. Finirà l'happy hour così volgare, con questi piatti riciclati, con queste paste fredde che si sa da dove arrivano, oppure, cioè, appunto, migliorerà, sarà più raffinato, oppure si continuerà su questa direzione visto il successo? Sì. Guarda, la tendenza è questa, diciamo che l'happy hour sicuramente ha contribuito a far conoscere anche il mondo dei cocktail, di più il mondo dei cocktail, perché comunque ha portato più gente nei locali, nei cocktail bar. Poi, come dicevi giustamente, è diventata un'aberrazione. Oggi si tende a far che cosa? A proporre qualcosa di più tipico, dico, di più caratteristico, di, si tende a portare il piattino al tavolo e a non vedere più questi enormi buffet che a un certo punto iniziavano a dare fastidio, oltre chiaramente a essere spesso qualcosa di antigenico. E, oggi si tende invece appunto a fare un servizio al tavolo sia del piattino di cibo, di specialità, sia del drink. Una delle tendenze molto forti in questo momento è la preparazione del drink col carrello. Portano il cocktail al tavolo, che è un'ultima tendenza che viene da Londra, in realtà è una tendenza antica, si usava molto nei bar, ma è stata riscoperta grazie anche a dei nostri barman che hanno fatto scuola a Londra, che sembra un paradosso, però è così. Ecco, ma c'è un modello italiano, cioè un tempo il bar era solamente in Italia, il bar come lo intendiamo noi, caffè, poi c'è stata una grandissima evoluzione a livello mondiale, oggi c'è un modello italiano, esiste un modello italiano? Beh, il modello italiano coincide con un modello internazionale, che è quello del locale salotto, se lo vogliamo chiamare così in italiano, se no lo chiameremo lounge in inglese, sì. Comunque il posto dove finita l'epoca dei locali dove la musica era troppo alta, dove le sedute erano scomode, oggi sì, le luci sono più soffuse, le sedute sono a volte dei divani, dei divanoni, spesso dei lettoni, c'è tutto un altro modo di fruire i locali, i bar si stanno trasformando in questi locali salotto, in questi lounge, sempre, questa è la tendenza, diciamo, che riguarda un po' tutta l'Italia. Ecco, io sono sempre stato fissato col cappuccino e ho sempre detto che in Italia si beve un pessimo cappuccino. Ora ho visto che quasi tutte le aziende di torrefazione, tutte le torrefazioni fanno dei corsi di professionali per insegnare a produrre in un bar il cappuccino, ma non vedo però dei grandi miglioramenti. Tu cosa ne pensi? Sì, come prima ti parlavo di una tipologia di locale prettamente serale, tu mi stai parlando di una tipologia di locale diurna, effettivamente dove ci sono ancora dei gap da colmare, la questione è questa, probabilmente c'è poca attenzione a quella che sembra ormai diventata la routine, cioè il cappuccino, per dire, il caffè, l'espresso che vengono serviti la mattina, vengono serviti ma senza prestare tanta attenzione perché i volumi sono tanti, probabilmente c'è anche una certa fatica da parte di chi sta dall'altra parte del banco ad accontentare la signora che chiede l'espresso con questo, quest'altro, freddo, caldo, lungo, cioè, sappiamo perfettamente che il barman medio italiano la mattina è preso d'assalto dalle richieste più disparate. Bene, io ti ringrazio, grazie a Stefano Ninčević del Bar Giornale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tendenze proiettate nel 2010. Vediamo cosa succede nel mondo del vino, nel mondo della ristorazione, nel mondo dei bar anche, abbiamo già visto e abbiamo visto che ci sono sicuramente dei grandissimi cambiamenti. Bene, cominciamo a parlare di vino con Francesco Zonin. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, buongiorno agli ascoltatori. Un'azienda, la Zonin, internazionale, quindi sicuramente andiamo a vedere così cosa succede in campo internazionale. E Francesco, ci sono dei grossi cambiamenti a livello, se vogliamo, di scelte del consumatore, quindi di tipologia di vino, oppure il 2010 si prevede che si continui così sulle ali del 2009, cioè con meno acquisti perché sicuramente i soldi ne girano molto meno e anche vini meno impegnativi. Volevo sapere cosa ne pensi. Ma allora, tanto dobbiamo dire che il 2009 alla fine non è stato così negativo come lo si vuole far passare. Diciamo che sì, diciamo che se probabilmente il comparto vino è uno di quelli che ha risentito meno, è anche vero il contrario, che nel mondo del vino le aziende sul territorio, sul campo, sono veramente tante, perché parliamo di più di 40.000 attività. Quindi è ovvio che in un numero così grande, in un mercato molto grande, ma che comunque ha mantenuto i ranghi, diciamo, c'è qualcuno che può andare bene e qualcuno che può aver sofferto. Per cui tanto diciamo che il vino è riuscito a mantenere bene le proprie posizioni. Diciamo che il trend 2009 potrebbe essere confermato nel 2010, è vero, si cercano vini, chiamiamoli meno impegnativi o con un grado alcolico leggermente più contenuto, diciamo che il consumatore comincia a osservarlo. L'altro trend è quello del ritorno verso un consumo, verso i vini bianchi, per cui ormai siamo il gap che aveva riscontrato il vino rosso negli anni 90 sta un po' rientrando, quindi ormai il mercato è praticamente suddiviso a metà fra bianchi e rossi. Invece la moda buona in continua evoluzione da 3-4 anni è quella delle bollicine, soprattutto su spumanti secchi e in primis sul prosecco, che quest'anno poi, grazie anche al ministro Zaia, ha ottenuto la ben amata DOC. Ecco, abbiamo con noi anche un grande esperto di vino, il responsabile del spirito di vino della rivista Andrea Grignaffini. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te. Tu che degusti continuamente, fai anche così tantissime verticali e confronti, mi vuoi dire, sta cambiando qualcosa nel vino in questo momento, cioè dal punto di vista, se vogliamo, del gusto, dei sapori, dei profumi, ma anche delle tendenze stesse del consumatore? C'è qualcosa di nuovo oppure rimaniamo ancorati a vecchi schemi? No, io penso che ci sia qualcosa di nuovo. Penso che il mondo del vino rifletta poi il mondo della vita reale, quindi se penso, non so, al mondo glamour degli anni 80, di parte degli anni 90, quindi anche il vino doveva essere muscolare, concentrato, profondo e caldo, e letteralmente in parallelo un po' alla vita di quei momenti. Adesso che la vita è un po' più cupa, come sottolineano financo i fumetti negli Stati Uniti, un po' dark rain, in questo momento il vino quindi diventa, secondo me, deve diventare più fruibile, più leggero e dare maggior piacevolezza piuttosto che potenza. E poi secondo me anche il cibo, che si sta molto trasformando, le pause pranzo sono cambiate, le colazioni di lavoro sono cambiate, quindi c'è bisogno secondo me di maggiore leggerezza, ed è anche un motivo per cui secondo me sta funzionando così tanto bene il pianeta delle bollicine italiane ma anche straniere, insomma. Zonin, ma il discorso dell'etilometro e quindi di un invito alla moderazione, di conseguenza il vino a calice, perché sempre più i ristoranti sono costretti, se vogliono vendere vino, a offrire vino a calice, sta portando anche dei cambiamenti a livello di produzione del vino? Ma guarda, intanto noi continuiamo a dire che il vino non deve essere bevuto con moderazione ma con senso di responsabilità, perché poi è un termine ed è un consumo molto soggettivo che varia da persona a persona. Se poi questa maggiore attenzione porta anche i ristoratori ad un uso maggiore o una presentazione maggiore del vino al bicchiere, spalanca le porte dal punto di vista dei produttori, perché è un fenomeno molto diffuso, a cominciare dal mondo anglosassone, ma ormai guarda, noi esportiamo in 91 paesi del mondo oggi e quasi tutti operano con il vino a bicchiere, e molto spesso è lo strumento che fa ruotare la cantina del ristoratore, per cui ne guadagna tutti, ne guadagna il consumatore che prova tante cose diverse, magari cose che non conosceva, ne guadagna il ristoratore che fa girare la propria cantina e ne guadagna anche il produttore, che in questo modo ha più chance di far conoscere i propri vini, i propri prodotti. Per cui ben venga sicuramente. Forse c'è un piccolo aumento anche interessante di consumo di mezze bottiglie, soprattutto da sport. Qui mi rilascio anche a quanto si diceva prima su uno stile di vita mutato anche negli anni 2000, per cui le famiglie si accorsano, mettiamola così, ci sono sempre più single, soprattutto in aree metropolitane, e soprattutto l'asporto della mezza bottiglia comincia a segnare un buon trend. Bene, abbiamo con noi anche un personaggio che sicuramente fotografa molto bene i cambiamenti che avvengono in giro per il mondo, però ora si è messo anche a produrre vino, e quindi proprio lui, a Oliviero Toscani, volevo chiedere, visto che gira il mondo e che so che ultimamente così è stato anche in paesi che generalmente non si frequentano, a cominciare dal Sudafrica, se vede dei grandi cambiamenti a livello mondiale proprio sul consumo sia di cibo che di vino. Buongiorno Oliviero. Buongiorno a tutti. Beh, in rapporto a che mondo viviamo, ci sono ancora dei paesi che non hanno proprio né cibo né vino, e ci sono dei paesi che hanno il problema di essere troppo grassi o anoressici, e quindi c'è di tutto, c'è per tutto e per tutti. Il Sudafrica è molto interessante, indubbiamente producono del vino, dell'ottimo vino, hanno territorio e voglia e capacità, e penso che ci siano altri paesi così. Quindi noi sicuramente non sappiamo promuovere il nostro vino italiano, Io ho notato, vivendo in Toscana, che non esiste una capacità di mettere insieme i produttori toscani, essendo la Toscana l'unica regione conosciuta al mondo, fra l'altro, con una potenzialità incredibile, non si riesce a organizzare una promozione seria del vino della Toscana. Poi la Toscana è fatta di tanti vini molto interessanti e eccellenti, fra l'altro. Quindi si va in giro a promuovere Terricciola e non si va in giro a promuovere la Toscana. No, ti ho fatto un nome qualsiasi, certo. Parlato di Terricciola, sono bravissimi, devo dire. Però nel mondo non si può conquistare il mondo facendo un nome locale così, insomma. Cioè, se uno dice champagne, tutti, anche gli astemici diventano allegri e gli piace il nome. E champagne è un territorio, Certo, ma volevo chiedere a Zonin se anche lui è convinto che l'Italia non sappia promuovere il proprio vino. Purtroppo devo dare ragione a Oliviero Toscani in questo caso. Sicuramente possiamo fare molto meglio. Qualcosa sta cambiando, però dovrebbe essere un cambiamento radicale, perché spesso la forza dell'Italia, che è questa territorialità e questo patrimonio incredibile di vitigni autoctoni, poi crea dei limiti nel momento in cui si va a promuovere, perché noi ogni tanto ci guardiamo troppo verso noi stessi e poco verso il mercato. È vero che molto probabilmente l'unico territorio italiano conosciuto al di fuori dell'Italia è la Toscana, ma la sicura è che quando si dice Toscana spesso il consumatore non ha la più pallida idea di che cosa sia. Se è una Toscana, se è una provincia, se è una regione, se è un territorio, se è un vino. Spesso noi portiamo presidenti di distributori americani, quindi persone con una certa capacità anche intellettuale, li portiamo a Firenze e in mezzo a Piazza della Signoria ci chiedono quando andranno in Toscana, o quando siamo in Chianti ci dicono bellissimo, ma quando è che andiamo in Toscana? Quindi il spezzettare troppo, soprattutto la promozione, crea questo tipo di problematiche. Quindi ben venga unirsi, e sono il primo a dire che fra noi produttori non siamo proprio bravissimi, e speriamo che lo possa fare qualcun altro e che cambiamo anche un po' di mentalità noi produttori. Oliviero, visto che tu ti occupi sicuramente di gusto e di evoluzione del gusto, vedi un'evoluzione o un'involuzione del cibo e del vino in questo momento? Ma no, ma c'è un'evoluzione, indubbiamente esiste un raffinamento in tutto, ma no, ma io tornerei su questo fatto, questo individualismo italiano è segno di grande provincialità, insomma, c'è niente da fare, non si può andare, è chiaro che uno viene, va a Firenze e poi domanda dove è la Toscana, vuol dire che abbiamo fatto noi confusione, non loro, è logico, siamo noi che abbiamo fatto confusione nell'informare, nel comunicare i nostri valori e le nostre realtà. Quindi va ripreso in mano tutto questo, dobbiamo veramente, c'è niente da fare. I francesi hanno 400 vendemmie più di noi, insomma, c'è niente da fare, hanno anche 400 anni di promozione più di noi. Ecco, a proposito di francesi, a proposito di promozioni, cosa ne pensate, Oliviero, cosa ne pensi prima tu di questa campagna che ha fatto il ministro Zaia durante le feste di consumare italiano in fatto di bollicine? Sai, consumare italiano è sempre, è molto provinciale questo, bisogna consumare non italiano, perché non ci comportiamo da nazione, ci comportiamo sempre da individui. Consumare italiano cosa vuol dire? Bisogna consumare meno, meglio e tutto questo, e noi dovremmo essere all'avanguardia di questo, ma non è che uno consuma italiano, non è che consuma i passaporti, capite? Cioè i prodotti non hanno passaporti, quando si politicizza così non funziona, devo dire che anche questo è una comunicazione molto provinciale, dire consumare italiano. Cosa vuol dire? Quando gli americani hanno fatto queste campagne consumare non ha funzionato. Zonin, lei cosa ne pensa di questa campagna che ha fatto il ministro Zaia? Ma guardi, è una campagna che tra l'altro segue il trend, perché grazie a Dio siamo in un paese dove la cultura del cibo enogastronomica è veramente elevata. Per cui l'italiano sa che i prodotti coltivati in Italia sono sinonimo sicuramente di qualità, e i dati lo danno a vedere, con o senza campagna, comunque l'italiano consuma molto il proprio territorio. Poi c'è da dire che una buona fetta se ne va all'estero, perché probabilmente l'alone di mistero che è lo champagne, comunque si fa sentire anche sugli italiani. Però, guardi, se dobbiamo vedere cosa sta succedendo alle bovicine italiane, credo che sia frutto sì di una campagna italiana, ma sia frutto soprattutto della qualità che sono riusciti a mettere in campo i produttori. No, io mi permetto di dissentire sul fatto che tutto quello che è italiano è qualità, perché insomma guardiamocene bene, specialmente sul prodotto gastronomico e anche sul vino, diciamo che c'è buona parte che è qualità, però c'è anche una parte che sicuramente non è all'altezza, come viene scoperto ogni giorno e così come magari anche consumando uno se ne rende conto ogni giorno. Bene, io ringrazio Oliviero Toscani e ringrazio Francesco Zonin. Il gastronauta. Di nuovo buongiorno cari gastronauti, ebbene avete sentito, sentirete, parliamo di 2010, di tendenze nel 2010 dalla gastronomia ai bar, al vino, fino al cibo e alla cucina ovviamente. Bene, abbiamo ancora con noi in linea Andrea Grignafini di Spirito di Vino, una rivista che si occupa molto ma molto bene appunto di vino, qui il divino è tutto attaccato sulla rivista, ovviamente giocando sulle parole, e Andrea Grignafini sicuramente ha sentito diciamo questo duetto tra Oliviero Toscani e Francesco Zonin, un po' cosa succede sul mondo, e io ho chiesto, ma è rimasta per aria questa parola, questa, diciamo, questo concetto, lo chiedo a lui e poi lo chiedo a un altro nostro ospite graditissimo che è Fulvio Pierangelini, ormai diventato il globetrotter tra gli chef. Chiedo, ma c'è stata un'evoluzione? C'è un'evoluzione del gusto o c'è un'involuzione, Andrea? Secondo me il gusto è sempre un fenomeno evolutivo ed è sempre un fenomeno dinamico, un po' così come la tradizione si trasforma, il gusto si trasforma. Poi dove andremo a finire non lo so, però secondo me lo spettro che abbiamo davanti, quindi io penso tutto a tutta questa panoramica di prodotti che si affacciano continuamente al nostro palato, eccetera, secondo me ci dà la possibilità di conoscere di più, e quando si conosce, secondo me, è tutto sommato è sempre un arricchimento, un miglioramento, è un po' come il cibo, è molto simile alla lingua, al di là del fatto che quella lingua si mangia e si degusta. Ecco, ma questo diciamo successo perché lo è, cioè da zero si è passato a tantissimi produttori dei vini naturali, biodinamici, chiamiamoli vini natur, come si chiamano in tantissime maniere, non è un po' tornare indietro? Sì, ma secondo me c'è sempre, i corsi e i ricorsi sono proprio un fenomeno tipico della storia e delle mode. Quello che adesso effettivamente nel mondo del vino è innovazione è proprio invece la tradizione più ortodossa, più oltranzista, quella della vigna, dell'uomo posto al centro della vigna, rispetto ai concetti più, diciamo, più moderni, diciamo dell'enologo, del winemaker. E anche qui, secondo me, quando poi anche questo diventa un fenomeno di moda, magari va visto con un po' di attenzione. Bene, grazie Andrea Grignafini, grazie. E ora ho detto Fulvio Pierangelini e ho anche Davide Scabin, cioè due personaggi con i quali mi piace molto dialogare. Allora comincerei con Fulvio Pierangelini. Fulvio, tu che ormai un giorno sei a Marrakech, un altro giorno sei a Roma, poi sei a Monaco e poi sei da tantissime altre parti, poi a Parigi. Ecco, volevo chiederti, cosa sta succedendo? C'è un qualcosa di particolare sulla cucina che sta avvenendo, un'innovazione particolari, oppure tutto continua tranquillamente come in passato? Ma io direi che probabilmente c'è un momento di grande confusione e credo che sia più che mai il caso di porre un'attenzione, di porre rigore, specialmente per quanto riguarda le tecniche, le materie prime. Si sta andando, poi dovrei fare tutti i distinguo delle varie zone, delle varie città dove io ho avuto queste esperienze, però credo che ci voglia un rigore assoluto, cioè non bisogna mai abbassare la guardia, perché anche da parte del pubblico c'è una facilità a lasciarsi andare, poi per i problemi economici, perché sono tutti diventati furbi, non lo so, è abbastanza complicato. Quindi tu dici c'è un momento forse che bisogna fermarsi a riflettere, questo che volevi dire? No, che non bisogna fermarsi, è il contrario, bisogna continuare ad essere duri, rigorosi, tutto quello che si è pensato che la gente ha acquisito non è vero. Io per esempio vedo all'estero anche questi stereotipi, questo pseudo folklore che ancora rischia di essere, oppure non lo so, io porto avanti un mio progetto assoluto, mentre vedo che comunque certi fenomeni, trattoria, certi fenomeni faciloneria, materie prime non controllatissime, uso di oli improbabili. Io credo che ci voglia un rigore assoluto oggi più che mai. Bene, rimani con noi, Davide. A Davide Scabin pongo la stessa domanda. Cosa sta succedendo, Davide? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Non sta succedendo niente di grave. Nel 2007 al Congresso Nazionale io diciamo che ho fatto un po' la mia dichiarazione di dissociarmi da quello che si stava intendendo per creatività, la corsa smodata a tutto ciò che potesse essere show sul tavolo. Non era dal 2007, ma già da un paio d'anni prima che diciamo che professavo la morale del gusto. Sotto questo termine diciamo che si è tutti liberi di applicare quello che si ritiene di maggior rilievo, di maggior soddisfazione. I cuochi devono avere però questa morale del gusto, non prescindere mai da questo. Per il resto direi che siamo arrivati, penso, al momento cruciale, siamo sullo spartiacque. L'Italia deve incominciare a fare sistema, a difendersi da quello che sono gli attacchi delle contaminazioni che arrivano da tutte le parti del mondo, perché siamo noi una micro realtà confronto all'espansione mondiale, confronto a culture che hanno i numeri di popolazione vastissimi confronto a quella italiana. Però la cultura italiana in qualche modo soffre di più perché ha più da difendere, e quindi forse anche quella più taroccata, più quella imitata, si presta a un cibo non soltanto elitario e quindi quello di tutti i giorni, ed è proprio su questo che forse dobbiamo portare avanti una, non una guerra, ma un'ottima difesa per iniziare a dimostrare perfettamente qual è la vastità delle cucine italiane, che non è una. Ma sono tante, sono le cucine dei campanili, secondo me, sono veramente tantissime. Ma io voglio porvi appunto questo interrogativo. Poche settimane fa ho incontrato Tony May, che ha aperto questo nuovo locale a New York, e mi ha detto una battuta, cioè riguardo ovviamente più pensando all'America, agli Stati Uniti. Dice: il successo di quella che viene considerata la cucina italiana può essere la fine della cucina italiana. Fulvio, tu cosa ne pensi? Cioè, lui sostiene che il successo di quella che all'estero viene percepita come cucina italiana e quindi è copiata e quindi divulgata come cucina italiana può essere veramente la fine del successo della cucina italiana. L'ho detto scherzando, che non capisco niente, chiaramente capisco esattamente quello che stavo dicendo io. L'Italia percepita è un'Italia che non ci appartiene più. Io ho detto a un direttore, ho detto: ma se tu vuoi fare una trattoria, io la so fare, però non è questo il compito oggi di chi vuol parlare dell'Italia. Diciamo che esistono mille successi, mille panorami. Probabilmente dobbiamo concentrarci meglio su che cosa vogliamo fare, ma se nessuno lo sa, io credo che non sia la cucina percepita italiana, non sia esattamente la vera cucina italiana di oggi. Non è che ci siamo massacrati per 30 anni ai fornelli, io, Davide, mille altri, tutti carini, tutti bravi, e adesso comunque è quello che dice Tony, la cucina percepita non è quella che ci ha fatto passare notti insonni. Davide, ma secondo te, allora, credo che siamo consci tutti che la cucina percepita italiana dall'estero non è quella vera. Cosa si può fare per così comunicare e far vedere qual è la vera cucina italiana? Intanto saluto Fulvio. Cosa si può fare? Io ho un progetto in ballo, grosso, per il 2011. Ci proverò, sarà uno dei miei progetti utopici come al solito, ma all'altro capo del telefono c'è un Fulvio, che è un grande sognatore, un grande pensatore, è un grande combattente della cucina italiana, che andrò a ripescare, andrò a chiedergli se ne vuol far parte. Quello che ho detto prima è momento che si faccia il sistema Italia e che si vada a dire che cos'è le cucine italiane e non fare in modo che gli altri così si appropriino e abusino di qualcosa nostro. Il progetto è molto grosso, dovrà coinvolgere tutte le regioni italiane con in ogni territorio, poi non vengo a parlare a te di territori gastronomici che hai fatto un grande trattato su quelle che sono le province invisibili e non geografiche e politiche dell'Italia, ma sui bacini dei prodotti nazionali, che però così vorrà coinvolgere tutte le regioni e le province, dove per ogni regione bisogna riuscire a trovare un leader che porti avanti quella che è la fotografia contemporanea dei nostri territori, delle nostre cucine italiane. Quindi siete tutti d'accordo che viene percepita una realtà che non è poi quella, diciamo, che è vera delle cucine italiane, cioè viene percepito un qualcosa che nel tempo probabilmente ha preso talmente le sembianze della cucina italiana, della cucina italiana, e secondo me ci vorrà parecchio per poter cancellare quello che oggi viene così percepito e creare qualcosa di nuovo, perché sicuramente quando ci sono percezioni molto forti, e negli Stati Uniti e in Francia e in Germania c'è uno stereotipo della cucina italiana che viene fatto proprio da altri, viene promosso da altri, secondo me ci è voluto secoli per farla valorizzare, ci vorranno decenni per sicuramente creare un'altra immagine. Fulvio, sei d'accordo? Ma però ti posso dire una cosa, io ho cucinato ieri sera e l'altro ieri sera a Parigi e faccio la mia cucina, quella assoluta, quella bella, quella mia, quella che tu conosci. Vedo che adorano quello che faccio e quindi credo che poi sia abbastanza facile far passare un altro messaggio. Però ci vuole gente che abbia il coraggio e le capacità, questo più che altro. Io vedo che quando cucino la gente adora quello che faccio e non mi lascia andare via. Bene, allora così speriamo in un 2010 di cambiare la percezione della cucina italiana. E Davide, quando tu avrai pronto il progetto e ne vorrai parlare, diciamo che il Gastronauta, la trasmissione del Gastronauta è pronta a discutere del tuo progetto. Guarda, ben volentieri, colgo l'occasione per salutare tutti e fare gli auguri, e anche sotto la cucina di Natale ci può essere lo stereotipo, però mi viene in mente che è un po' come abbiamo noi la percezione della cucina cinese, no? È qualcosa che puzza di fritto, si chiama soltanto wonton e cose del genere. Poi in Cina c'è una cultura della cucina, quella millenaria, che neanche noi professionisti a volte conosciamo. Possiamo utilizzare lo stesso sistema, però bisogna incominciare a muoverci insieme tutti quanti nelle cose internazionali dove c'è maggior visibilità. Questo è l'augurio per il 2010. Gli stereotipi sono tanti, anche quelli della cucina giapponese, perché magari buona parte degli italiani ritiene che sia il sushi l'unico piatto che si mangia in Giappone, invece come voi ben sapete la realtà è tutt'altra ed è straordinaria. Bene, grazie, io ringrazio tutti, di nuovo auguro un bellissimo 2010, vi do appuntamento domani per la replica di questa trasmissione alle 10 e alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno alle 18.30 con la pillola quotidiana. Buon weekend dal vostro Davide Paolini.